Ad alta voce, Elia Shilton legge I miei premi, di Thomas Bernard. Traduzione di Elisabetta Dell'Anna Ciancia. Sesta puntata. Il premio nazionale austriaco per la letteratura. Il premio nazionale austriaco per la letteratura l'ho ricevuto nel 1967 e devo subito dire che si trattò del cosiddetto piccolo premio nazionale, quello che uno scrittore riceve solo per una data opera e al quale si deve candidare lui stesso presentando uno dei suoi lavori al competente Ministero della Cultura e dell'Arte, e che io l'ho ricevuto a un'età in cui normalmente non si riceve più, vale a dire, come nel mio caso, passati i 30 anni, mentre è invalsa l'abitudine di assegnare questo premio già ai ventenni, cosa assolutamente giusta. Si trattò dunque del piccolo e non del cosiddetto grande premio nazionale che viene assegnato per la cosiddetta opera di un'intera vita. Nessuno fu più stupito di me nel vedermi conferire il piccolo premio nazionale, perché io non avevo presentato nessuno dei miei lavori, non l'avrei mai fatto. A mia insaputa era stato mio fratello, come in seguito mi confessò, a depositare gelo nella portineria del Ministero della Cultura e dell'Arte in Minoritenplatz proprio nell'ultimo giorno utile per la presentazione delle opere. Non fui affatto entusiasta alla notizia che avevo ottenuto il premio, visto che una quantità di giovani avevano già ricevuto quel premio prima di me, svalutandolo così ampiamente ai miei occhi. Ma non volli fare il guastafeste e accettai il premio anche in considerazione del fatto che lo avrei ritirato a 30 anni esatti di distanza da mio nonno, il quale lo aveva ricevuto nel 1937. Fu questa circostanza a farmi comunicare al ministero che accettavo il premio con grande piacere. In realtà mi sentivo un groppo allo stomaco all'idea di dover ritirare a quasi 40 anni un premio che avrebbe dovuto essere riservato ai ventenni, e più in generale avevo rapporti tesi con il mio stato, così come li ho tutt'oggi e in dimensioni molto più esasperate ancora, e i rapporti più tesi li avevo proprio con il nostro Ministero della Cultura e dell'Arte, che con assoluta cognizione di causa aborrivo, a cominciare dai ministri di volta in volta in carica. In gioventù avevo varcato spesso la soglia di quel ministero per ottenere una cosiddetta sovvenzione a favore dei viaggi all'estero a metà dei miei 20 anni, perché avrei voluto viaggiare molto, quasi ininterrottamente, e non avevo i soldi per farlo. Il ministero mi aveva concesso 2 o 3 volte una tale sovvenzione. Di sicuro gli devo 2 viaggi in Italia. Ma ogni volta che uscivo dal ministero maledicevo i suoi funzionari e il modo in cui al ministero trattavano la gente come me. E poi avevo imparato a odiarlo anche per molti altri motivi che qui non voglio esporre. Trovavo che i funzionari erano autoritari e ottusi, e quando parlavo con loro non capivano di che cosa stessi parlando, e in tutti i campi della cultura e dell'arte avevano il peggior gusto che si potesse immaginare. Detto in poche parole, ora mi toccava digerire il fatto che un giorno di primavera avrei ritirato per il mio gelo, che mio fratello, per non importa quale assurda ragione, aveva depositato nella portineria di Minoritenplatz, il premio nazionale. Che adesso mi sbattessero in faccia il cosiddetto piccolo premio nazionale lo avvertivo come un'umiliazione, ma non volevo fare uno scandalo, e mio fratello era riuscito a convincermi che era bene accettare il premio senza obiezioni. Ora mi toccava andare giusto appunto in quel ministero che profondamente aborrivo e farmi appioppare un premio proprio da quella gente che esecravo. Avevo giurato a me stesso di non mettere mai più piede in quel ministero in cui regnava sempre e soltanto l'ottusità e l'ipocrisia. Adesso invece ero costretto nella camicia di forza in cui mi aveva ficcato mio fratello. Parecchi giornali, nel dare la notizia che avrei ricevuto il premio nazionale, l'avevano formulata come se si trattasse del grande premio nazionale, mentre in questione era l'umiliante piccolo premio. La cosa non mi andava giù e per settimane mi aggirai con quel boccone nella strozza. Ma non volevo espormi con un rifiuto. perché in tal caso tutti mi avrebbero dato ancora una volta dell'arrogante e del megalomane, il che per certa gente è la norma. Ancora oggi mi danno dell'arrogante e del megalomane, e forse hanno ragione. Forse sono davvero megalomane e arrogante. Di un giudizio esaustivo su me stesso sono incapace. Ma per quanto l'idea di dover andare al ministero a ritirare il piccolo premio nazionale non mi andasse giù, mi salvava pur sempre il fatto che anche quel piccolo premio nazionale fosse legato a una somma in denaro. All'epoca 25.000 scellini, di cui io, indebitato fino al collo com'ero, avevo urgente bisogno. A quei debiti, a suo dire, aveva pensato mio fratello quando si era permesso l'enormità di depositare il mio gelo nella portineria del ministero. Così, devo ammetterlo, quando pensavo alla somma di 25.000 scellini, ero sempre d'accordo con il premio, con quanto di orribile e repellente a quel premio era per forza connesso. Aborrivo il premio solo finché non pensavo ai 25.000 scellini. Se invece pensavo ai 25.000 scellini, mi adattavo al mio destino. La questione è se avere o non avere i 25.000 scellini, pensavo tutto il tempo. E del resto aveva ragione mio fratello a dire che dovevo semplicemente ritirare il premio senza fare scandali, senza alcun commento. Tra me e me pensavo che la giuria si era permessa nei miei confronti una vera insolenza assegnandomi il piccolo premio nazionale, quando io semmai, come è ovvio, mi sentivo invece assolutamente pronto e già allora ero impredicato solo per il grande premio nazionale e non per il piccolo. Pensavo che, insomma, per i miei nemici letterari di quella giuria fosse un diabolico piacere rovesciarmi dal mio piedistallo con quel piccolo premio che mi buttavano in faccia. Potevano credere sul serio che fossi stato io in persona a candidarmi al piccolo premio, pensavo, a consegnarmi consapevolmente e a occhi aperti al dilettantismo del loro gusto. Sì, è possibile che pensassero fossi stato proprio io a depositare il mio gelo nella portineria del ministero. Probabilmente è così, loro erano fatti in quel modo e non riuscivano a pensare altrimenti. Tutta la gente che si congratulava per il premio credeva naturalmente avessi ricevuto il grande premio nazionale e io mi trovavo ogni volta nell'imbarazzo di dover dire che si trattava solo del piccolo, quello che ormai quasi qualsiasi coglione scrivente aveva ricevuto, e ogni volta ero costretto a spiegare ai miei interlocutori la differenza tra il piccolo e il grande premio nazionale, e quando ben bene l'avevo spiegata avevo l'impressione che non riuscissero più a seguirmi. Il Gran Premio Nazionale, continuavo a ripetere, premiava la cosiddetta opera di tutta una vita e lo si riceveva in età avanzata e veniva assegnato dal cosiddetto Senato dell'Arte, che era composto da tutti coloro che avevano ricevuto finora il Grande Premio Nazionale. E non c'era soltanto il Grande Premio Nazionale per la letteratura, ma anche quello per le cosiddette arti figurative e quello per la musica, eccetera. Quando mi chiedevano chi avesse già ricevuto questo cosiddetto grande premio nazionale, rispondevo ogni volta: solo grandi coglioni. E se mi chiedevano come si chiamassero quei coglioni, elencavo una serie di coglioni che ai miei interlocutori erano del tutto sconosciuti. Quei coglioni erano noti solo a me. E così questo Senato dell'Arte sarebbe composto esclusivamente di coglioni, se tutti quelli che siedono nel Senato dell'Arte tu li definisci coglioni, mi dicevano. Sì, dicevo io, nel Senato dell'Arte siedono solo coglioni, e precisamente coglioni cattolici e nazionalsocialisti, con in più qualche ebreo messo lì come alibi. A me queste domande, queste risposte davano la nausea. E quei coglioni, dicevano i miei interlocutori, cooptano ogni anno nuovi coglioni nel loro senato, assegnando loro il grande premio nazionale. Sì, dicevo io, ogni anno vengono cooptati nuovi coglioni in quello stato che si definisce senato dell'arte e nel nostro stato rappresenta un male inestirpabile, una perversa assurdità. È un consesso delle peggiori schiappe, un'assemblea di canaglie, dicevo ogni volta. E che cos'è allora il piccolo premio nazionale? Mi chiedevano e io rispondevo che il piccolo premio nazionale è un cosiddetto premio di incoraggiamento per nuovi talenti e che finora l'hanno ricevuto talmente in tanti che non è possibile elencarli tutti e tra questi ci sono ora anche io che infatti ho ricevuto il piccolo premio nazionale per punizione, dicevo. Per punizione di che cosa? Mi chiedevano allora e io non sapevo rispondere. Il piccolo premio nazionale, passati 30 anni, è un ignobile affronto, dicevo, e poiché io di anni ne ho già quasi 40, è un affronto enorme. Ma aggiungevo che avevo giurato a me stesso di digerirlo, quell'enorme affronto, e che non ci pensavo neppure a rifiutarlo, quell'enorme affronto. Non ho nessuna intenzione di rifiutare 25.000 scellini, dicevo. Io sono avido di denaro, sono privo di carattere, sono io stesso un porco. I miei interlocutori non si arrendevano e continuavano a girare il coltello nella piaga. Sapevano con precisione dove girarlo per farmi andare in bestia. Incontrandomi la mattina si congratulavano per il premio. Era proprio ora che mi assegnassero finalmente il premio nazionale per la letteratura, dicevano, facendo poi una pausa significativa. Allora dovevo spiegare che nel mio caso si trattava del piccolo premio nazionale, di un affronto e non di un onore. Ma i premi non sono affatto un onore, aggiungevo. Gli onori sono soltanto cattiverie. Non esistono onori sulla faccia della terra. La gente parla di onori e invece sono solo affronti. Di qualsiasi onore si stia parlando, dicevo. Lo Stato copre di onori i suoi cittadini che lavorano. In realtà li copre di cattiverie e di affronti, dicevo. Mia zia aveva sempre avuto un altissimo concetto del nostro Stato e dello Stato in sé. In vita suo marito era un alto funzionario statale. Lei si comportò come se mi fosse toccato un onore quando sul giornale apparve la notizia che avrei ricevuto il premio nazionale. Anche a lei dovetti spiegare che si trattava del piccolo e non del grande premio nazionale. E di nuovo cercai di chiarire esattamente la differenza tra i due premi. E alla fine della mia spiegazione dissi che comunque né il piccolo né il grande premio nazionale valevano qualcosa. Entrambi i premi erano un affronto ed era abietto accettare uno qualsiasi dei due, ma io ero abbastanza privo di carattere da accettare quel premio perché intendevo accettare i 25.000 scellini. La zia fu delusa di me. Finora aveva avuto per me troppa stima. Non dovevo accettare il premio, disse, se davvero la pensavo come avevo appena detto. La penso come ho detto e tuttavia accetterò il premio, prenderò quei soldi perché a uno Stato che ogni anno butta dalla finestra sconsideratamente non i milioni ma i miliardi bisogna spillare tutto il denaro che si può, dissi. Il cittadino ne ha diritto e io non sono mica scemo. Abbiamo un governo spregevole per il quale tutti i mezzi sono buoni per mettersi in mostra e restare al potere, anche se lo Stato va in malora. Ebbene, a questo Stato è ovvio che spillerò i 25.000 scellini, abietto o no, privo di carattere o no, dissi. La zia mi accusò di incoerenza. La mia posizione non la convinceva. Non credo sia mancanza di carattere andare a prendermi il denaro da coloro che profondamente aborrisco e disprezzo. Tutto al contrario, dissi. A risarcimento della mortificazione inflittami con il piccolo premio nazionale, dovevo fare un viaggio. Perfino in Europa c'erano tanti paesi che ancora non conoscevo. Con i 25.000 scellini avrei avuto la possibilità di fare un viaggio in Spagna, per esempio, dove non ero mai stato. Se non prendo io quel denaro per farci un viaggio, dissi, se lo godrà una di quelle schiappe che fanno solo danno e appestano l'aria con la loro produzione. Più si avvicinava il giorno della consegna del premio, più trascorrevo quasi intollerabili notti insonni. Quel che da qualche cretino era stato magari concepito davvero come un onore, io quanto più ci pensavo, tanto più lo avvertivo come una canagliata. Decapitazione sarebbe forse eccessivo, ma canagliata mi sembra ancora oggi il termine più calzante. Quei tanti ventenni e ventiduenni e venticinquenni scrittori di radiodrammi vestiti alla moda che incontravo per strada erano tutti vincitori del premio nazionale. Si comportavano come se solo ora io avessi ottenuto la loro stessa consacrazione e questo mi rodeva. Peraltro l'ottica era giusta. Nell'intera Austria il mio gelo non aveva avuto una sola recensione positiva. Al contrario, alla sua uscita era stato subito stroncato senza eccezioni da tutti i giornali austriaci, ma non nella rubrica giusta, come mi sarei aspettato, bensì da qualche parte in fondo, a destra o a sinistra, là dove da sempre trovano posto indegnità e il disprezzo. Mi arrabbiavo e con l'intemperanza di chi non sa controllarsi mi arrabbiavo oltre ogni limite, ma alla fine dovevo sempre domandarmi se non fosse tutta quella gente ad avere ragione. Forse ero soltanto come loro mi valutavano. Mi vietai di indagare oltre. Il tempo è inesorabile. Lo fu anche allora. Elia Shilton ha letto I miei premi di Thomas Bernhard. Traduzione di Elisabetta Dell'Anna Ciancia. A cura di Anna Antonelli e Lorenzo Pavolini con Chiara D'Ambros. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.